Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, eccoci di nuovo insieme pronti per iniziare una nuova puntata. Allora ascoltiamo i temi del giorno. Il lavoro ti fa ammalare? Parliamone insieme. Tumore al seno, buone nuove dalla ricerca. Dieta antifreddo. Allora, la puntata di oggi ruota intorno ad una domanda molto semplice. Il lavoro ti procura benessere o malessere? Insomma, nobilita o debilita? Giro subito questa domanda che ai miei ospiti, perché ho due medici e un giornalista e ho specificato proprio la loro qualifica perché parleranno sia da lavoratori che da esperti. In studio con me ho Alessandro Pellizzari. Ciao Nicoletta. Qua in studio con noi, e devo dire che ha avuto tutto un scodazzo di fan che l'ha seguito, sì, è vero, allo studio. Adesso io l'ho chiuso qua dentro, ho detto è mio, anzi è nostro, basta. Abbiamo il dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Un nome è una garanzia. Grazie, buongiorno agli ascoltatori. Sì, mi ha fatto diventare rosso ovviamente tutto il codazzo che c'è qui, però siamo in radio e quindi non va, si bene. Vede. E poi farà bene arrossire la circolazione? Fa bene arrossire, fa bene la circolazione. Forse anche questo è il lavoro che fa bene. Vediamo. Noi abbiamo in linea un medico del lavoro, il dottor Nino Santerni. Buongiorno. Buongiorno a tutti i presenti e ovviamente anche agli ascoltatori. Non sono così bello messo bene, però io temo. Ci mandi... come il dottor Gargiulo. Senta, mi sento un po' male, disabilitato. Ci mandi una foto. Allora, io vorrei che voi, i due medici, il dottor Gargiulo e il dottor Santerni, vi toglieste il camice, sembra una trasmissione hard. In realtà volevo che voi vi toglieste il camice per raccontarci da medici quali sono le fatiche, magari le occasioni in cui il vostro lavoro moltiplica, magari ha un effetto moltiplicatore su alcuni disturbi che vi portate da casa, oppure magari avvertite che il problema risiede proprio lì nel vostro lavoro perché è particolarmente stressante. Certo. Oppure vuole iniziare lei, che di lavoratori ne frequenta parecchi, dottor Santerni? Sì, volentieri. No, guardi, io sono del parere che almeno inizialmente tutti i lavori nobiliti, no? Nel senso che è quello che ci permette di lasciare l'adolescenza e di passare all'età adulta, e quindi è già lì un passaggio importante di grado che facciamo. Sì. Diciamo. Successivamente, se la motivazione, la soddisfazione per il lavoro svolto, specialmente se faccio un lavoro per cui ho studiato ed è quello proprio il mio lavoro, ovviamente mantengo una situazione di benessere e mantengo una situazione di nobiltà. Questa nobiltà però cresce un po' a gradini, voglio dire, nel senso che se non ci sono, cioè c'è un gradino e poi c'è una situazione di fermo, di passaggio. Se non c'è un qualcosa che aumenta la mia gratificazione, cioè una promozione, un aumento di stipendio, un cambio di mansione, alla fine tendo a entrare in una sfera di disabilità, non so come dire. Senta, dottore, però si lamenti un po' anche lei, perché così vi date una mano reciproca tra lei e il dottor Gargiulo, ma ci mettiamo anche noi con gli ascoltatori, perché anche da noi può arrivare magari un suggerimento. Certo, se posso aggiungere, diciamo che sono d'accordo sicuramente con il collega. Nel caso specifico io risento molto col mio lavoro della sedentarietà del mio lavoro. Bravo. Onestamente, giorno dopo giorno l'ambulatorio, devo dire sinceramente, mi porta a essere un pochino più sedentario. Uno mette in atto poi magari qualche piccolo trucco per riuscire a migliorare la situazione. Forse un medico di medicina generale soffre un po' dei disturbi dell'impiegato, fra virgolette, perché fa anche quello, e magari poi i disturbi dello stress legato allo stress da lavoro, all'impegno che uno deve mettere per fare una diagnosi corretta, per dare la giusta terapia e via di seguito. Quindi noi oggi possiamo lamentarci liberamente, facciamo una trasmissione del mugugno e magari insieme ai nostri esperti, sì, e voi da casa anche possono lamentare anche i giornalisti. E voglio sapere da te, giornalisti, a parte che tu hai questo lavoro bellissimo, perché come il nostro siamo bellissimo. Fortunati a fare un lavoro che ci piace, è assolutamente questo... bello. Ogni tanto ci pigliamo degli spaventi, un po' di stress, ad esempio. Approfitta del dottor Gargiulo. Cosa la paura, ti senti? La paura di fare un errore, o comunque chi lavora in un giornale e chiude le cosiddette pagine, cioè le manda via, dopodiché c'è solo l'edicola, in quel momento un pochino di stress, soprattutto per chi è neopromosso lo prova, ecco, perché finché non poi rivede il giornale in stampa non sa se ha fatto bene o se ha fatto male, e a volte certi errori possono costare caro. Per fortuna c'è l'angelo del giornalista, a me viene a trovare di notte ogni tanto e il giorno dopo mi dice: ma scusa, ma in quella pagina lì avevi guardato quella cosa lì? E la becco, e quindi io mi affido molto all'angelo del giornalista. Salve, io ogni volta che viaggio col camion in centro a Milano mi viene la gastrite, ci scrive. Tutti i lavori nobilitano e tutti i lavori debilitano se li fanno svolgere male, per fretto, tempi stressanti, ci scrive Tony, camionista. Noi abbiamo raccolto, come avete fatto anche voi di star bene, delle storie. Ascoltiamo la prima, vedete se in qualche modo vi riconoscete. La sentiamo, poi la commentiamo. Ciao, mi chiamo Claudio, ho 49 anni, da 12 faccio il tassista a Milano. È un lavoro bellissimo, io adoro veramente questo lavoro perché mi permette di vivere in pieno la mia città. Il lato negativo, i lati negativi di questo lavoro sono secondo me di due tipi: uno fisico, che è dato dalla postura che noi purtroppo teniamo in macchina per 10 ore al giorno, che si ripercuote poi un po' anche sulla cervicale e sugli arti, e un problema dato dallo stress che si ha quando si rimane in macchina per 10 ore al giorno, soprattutto in una grande città, con tutti i problemi di traffico che ne derivano. Io ne ho parlato col mio medico di questi problemi, ma onestamente non si riesce a trovare una soluzione. Volevo sapere da voi che cosa mi consigliate a riguardo. Il tema viene ripreso anche dal... Sì, dal... noi abbiamo intervistato una collega, Pamela, una tassista donna. Ecco, per lei invece il discorso è simile, però ci aggiunge anche in questo periodo l'umidità, quindi entrare e uscire da situazioni di caldo, riscaldamento della macchina, eccetera. Certo. E poi una cosa che è legata alla postura, al fatto di stare seduti a lunghi, che sono le emorroidi. Sì, se posso aggiungere, fra l'altro le donne soffrono anche del fatto di una particolare situazione anatomica e quindi gli comporta più disturbi sia a livello della vescica, sia a livello dell'apparato genitale, più facilmente le infiammazioni. E per una donna che fa il tassista effettivamente bisognerebbe utilizzare delle precauzioni, che sono quelle di ogni tanto lasciare la posizione seduta, soprattutto nelle soste, nei parcheggi, cercare di uscire dal taxi, muoversi, camminare un pochino, riuscire a trovare dei punti di riferimento dove poter urinare con una certa regolarità, perché sembra questo una aiuta. Banalità, ma questo aiuta molto, perché trattenere aumenta il rischio di cistite. Senta, ma il nostro amico Claudio tassista ci ha detto: beh, ne ho parlato con il medico, ma poi alla fine, e chiede un aiuto. Sono problemi così frequenti, sì, per i quali non si rischia, no, la vita, che si ha la tendenza un po' di trascurarle, o meglio, non riceviamo forse dal nostro medico curante le attenzioni, i consigli che... Sono assolutamente d'accordo. Noi purtroppo, e mi ci metto anch'io, spesso tendiamo un po' a trascurare questo problema perché ci troviamo sempre di fronte al bivio di dover dire o cambi lavoro o continui così, ma non è la realtà. Credo che il collega medico del lavoro ci sappia dire anche qualcosa in più da questo punto di vista. Un po' di prevenzione forse potremmo farla e ottenere dei risultati che siano migliori. Dottor Santerni. Temo che la prevenzione in questi casi sia molto difficile, perché una cosa di cui non abbiamo parlato in questi due casi è il problema delle vibrazioni trasmesse dal taxi al corpo. Sì, e quindi anche il camion, e quindi in genere tutte le persone che dipendono scarsamente dai mezzi, perché molto spesso i mezzi utilizzati adesso, sia camion che automobili, sono fatti in modo da assorbire queste vibrazioni. Ma tristemente abbiamo in Italia delle strade che sono delle buche senza fine, dei binari, delle disconnessioni, per cui è chiaro, certo, è meglio ogni ora almeno stare in piedi e camminare per almeno 5-10 minuti, però in certe mansioni temo che sia veramente difficile, quindi il meglio sarebbe nei momenti di pausa trovare modo di fare dell'esercizio fisico, del nuoto, delle camminate a passo di marcia e così via, insomma. Nel tempo libero. Tanto andiamo a Vicenza, ci aspetta Elio. Buongiorno Elio. Sì, buongiorno, grazie. Ci racconti? Niente, praticamente io faccio camionista, sì, come tanti altri, e niente, è stato, diciamo, la mia aspirazione, insomma, arrivare a fare un mestiere del genere, solo che appunto nel tempo mi ha procurato dei scompensi fisici, un'ernia cervicale, un'ernia a disco e la psoriasi, che come sappiamo è una malattia psicosomatica, evidentemente lo stress del traffico e di tutto il resto mi ha portato vari problemi. Le ricerche, mi scusi Elio, ma il dottor Gargiulo mi può correggere perché non voglio fare balanzone, ma la psoriasi in realtà non è una malattia psicosomatica, è acuita, aggravata dallo stress, ma ha delle cause, no? Sì, diverse. Sicuramente, probabilmente ha delle cause anche autoimmunitarie, quindi, però è aggravata. Però aggravata, giustamente come dice Elio. Quindi Elio si ritrova a fare un lavoro che gli piace, vero Elio? Sì, certo, infatti come dicevo mi piace e tutto sommato diciamo che alla fine sono contento così, perché avendo 41 anni continuo comunque a giocare a calcetto anche contro un po' il parere del figlio terapista, però visto che è l'unico modo per poter fare un po' di moto, lo faccio lo stesso, non lo sposto. Senta, Elio, ha mai pensato quindi di, oltre a giocare a calcetto, di fare qualche cosa che i medici magari hanno consigliato per il proprio benessere? Ad esempio il dottor Gargiulo cosa suggerirebbe, Elio? Sicuramente dei cicli di fisioterapia, ad esempio, o della ginnastica fatta sotto controllo medico di un preparatore, e queste sono cose che possono aiutare a ridare il giusto movimento, soprattutto in un caso come questo dove c'è un problema di colonna vertebrale. Abbiamo parlato di ernie cervicali, di ernia lombare, quindi di situazioni cui lui era sicuramente predisposto, ma che il lavoro ha slatentizzato, ha tirato fuori. Quanti anni è che fa il camionista? Sono più di 20. Altra cosa interessante, com'è cambiato il camion in questi 20 anni? È migliorato dal punto di vista del comfort? Ah beh, sicuramente. Già noi abbiamo il sedile a aria, diciamo, no? Che attutisce tutte le imperfezioni della strada. Della strada, sì. E i comfort sono aumentati tantissimo, si sta bene, insomma, sopra la cabina, anche la cabina stessa è ammortizzata a dovere e tutto il resto. Quindi solo che noi facendo un lavoro di coi supermercati ci tocca purtroppo, fa parentesi, caricare e scaricare il camion. Tutto sommato per certi versi può essere anche utile, perché il cambiare la postura in quel caso, quindi muoversi, l'importante è riuscire ad avere anche nel caso di caricare e scaricare, ad avere alcune precauzioni che servono a migliorare l'uso che facciamo della macchina uomo. Certo, dopo lì subentra il problema del tempo, perché avendo moglie e figli non si ha il tempo di fare fisioterapia, però mi piace fare anche nuoto, dunque penso. Senta, però io sento nella sua voce, lei è appassionato del suo lavoro e questo è sicuramente camionista contento. Quando parliamo di lavoro usiamo spesso mettergli una parola vicino, stress. Bisogna cercare di capire se è il lavoro che ci stressa, oppure se al lavoro portiamo lo stress che accumuliamo in altre situazioni, nelle relazioni familiari. In linea con noi abbiamo il professor Giampaolo Perna. Buongiorno professore. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Responsabile del Centro per i Disturbi d'Ansia dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Professore, io vorrei che insieme ai nostri esperti lei ci desse qualche indicazione molto molto pratica da seguire. Tante volte se sono troppo semplici non le seguiamo perché crediamo che non valgano. Per un po' lasciare lo stress fuori dal nostro mondo di lavoro e anche senza portarcelo poi a casa. È possibile? Sì, allora facciamo una brevissima premessa che dice che lo stress è una componente normale della vita di tutti, quindi è chiaro che ogni volta che noi affrontiamo delle situazioni di vita diventiamo stressati, ma il problema è avere uno stress buono, quindi lo stress acuto, cioè quello che viene quando dobbiamo affrontare un problema è ottimo, quello che ci portiamo via col tempo è quello negativo, quello che si chiama stress cronico. Sì. Quindi i suggerimenti veri sono, ricordiamoci che fare dell'attività fisica riduce comunque l'effetto dello stress, che alimentarsi correttamente, regolare il ritmo del sonno in maniera ottimale e soprattutto trovare degli spazi, riuscire a staccare la spina è cruciale. Lo stress non fa male, è un'arma che ci permette di combattere, ma dobbiamo essere capaci, finito il momento, di staccare la spina. Quindi quello è il vero, vero punto centrale. Allora, proviamo a staccare la spina, proviamo ad allenarci a farlo, perché, dottor Gargiulo, non so se lo stress entra anche nell'ambulatorio del medico di famiglia o sta sulla porta, un po' ma come... No, entra sicuramente nel nostro ambulatorio sotto forma di malattia o di disturbi che il paziente lamenta e che in realtà non corrispondono ad una malattia fisica, ma corrispondono ad un disagio che spesso è lo stress da lavoro. Diceva giustamente il professore, quando lo stress stress è cronico, quindi quando la situazione tutti i giorni si ripete la stessa e per cui vai al lavoro e non ti va di andarci, magari hai un capo che non funziona, magari hai una situazione lavorativa difficile, ecco, quello è massacrante. Professor Perna, tutte le tre cose insieme non ce la si fa per pensare di staccare la spina, ritornare ad una dieta equilibrata. Diamo un compito per questa settimana. Allora, il compito è, bando alle ciance, sì, no? Allenarsi 3 volte alla settimana, 20 minuti, facendo ciclette o corsa, quello che volete. Ma questa cosa, che io ripeto da tempo, ma che la scienza dimostra, no, essere, sì, efficace per aiutare il cervello e il benessere, va fatta. Quindi, prendiamoci questo appuntamento, professor, sì, Perna, un invito che lancio anche ai nostri ascoltatori da casa. Se in questo momento voi vi sentite stressati e volete provare a sfidare lo stress, a superare lo stress con i consigli del professor Perna, ma scrivetemi un'email, inizio da oggi 3 volte alla settimana 20 minuti di attività fisica, ci mandate anche i vostri recapiti, tra una settimana, 10 giorni ci prendiamo un appuntamento telefonico e vediamo se quello che consiglia il professor Perna, tra l'altro lo consiglia ma è supportato dalle ricerche, fa bene o fa male. Professor Perna, accetta la sfida? Sì, ti dico una cosa. Allora, gli studi dicono che ci vogliono circa dai 2 ai 3 mesi di allenamento per avere un beneficio forte. Quindi io dico, chi ha coraggio, inizia a farlo, no? E fra 3 mesi ci faccia sapere veramente cosa succede. Poi possiamo vedere volta dopo volta. Certo, noi però iniziamo già a monitorarli, quindi ci prendiamo un po' di tempo. Grazie, professor Perna. Arrivederci a tutti. Tante volte noi ci sentiamo stressati anche perché non sufficientemente gratificati. Dottor Santerni, la gratificazione che ci può venire da un nostro capo, da un collega, insomma, stai andando bene, stai svolgendo bene il tuo lavoro, può in qualche modo farci sentire meglio? Certamente, e quindi il contenuto del lavoro che si fa, la richiesta della mansione, la motivazione data dal capo, fanno parte della soddisfazione, e se manca questo si comincia a generare lo stress. Volevo dire una cosa a proposito dello stress, che è un obbligo del datore di lavoro, quindi dell'imprenditore, valutare nella sua azienda lo stress correlato al lavoro. Come fa? Ci stiamo attrezzando, nel senso che ci sono degli indici indiretti ma abbastanza oggettivi di una situazione stressata sia nei reparti che per le qualifiche, voglio dire, in un'azienda dove c'è un alto turnover, cioè la gente se ne va perché è stressata, è stanca, roba del genere, questo è un indice importante. In un'azienda dove c'è tanta malattia, a basso numero di giorni, voglio dire, la lunga malattia è sicuramente una malattia, ma la malattia sotto i 3 giorni può denunciare una situazione. Come quando si tagliava il compito di greco a scuola, che si tagliava il giorno prima e il giorno stesso per non dare. Quindi questi sono alcuni degli indicatori che permetteranno un po' di quantificare il livello di stress. Sì, è un obbligo del datore di lavoro, sanzionato se, dagli inizi dell'anno prossimo, se egli non provvederà, insieme al medico competente, voglio dire, al medico del lavoro aziendale, come ci chiamano purtroppo nelle aziende, medici competenti, di valutare questo stress correlato al lavoro. Poi vi sono anche altri strumenti più indiretti, che sono somministrare ai lavoratori dei questionari soggettivi, e quindi speriamo che dopo averlo misurato riusciate anche in qualche modo a dottor Gargiulo. La riduzione è il passo successivo. Una volta misurato, bisogna che il datore di lavoro sia sufficientemente illuminato in questo senso. Alessandro, a proposito di riduzione, vorrei chiedere un consiglio ai nostri medici. Ma se io ho a che fare, per esempio, con un capo che non mi va bene, a cui voglio dire da tanto tempo, da medio tempo, qualche cosa, sono più stressato a stare a tenermelo per me, perché tanto poi lui mi risponderà male, oppure glielo devo dire? Qual è il vostro consiglio? Meglio tenersi lo stress e cercare di risolverselo per conto proprio, una oppure peggio? Rapida, dipende dal capo. Se accetta si può parlare, differentemente è un rischio troppo grosso, secondo me. E dottor Santerni, rapidamente, sì o no? Si parla o si tace? Velocissima è questa: se hai un altro lavoro a disposizione altrettanto gratificante, scappa. Siamo consapevoli che purtroppo, anche se la notte sembra fatta per dormire, qualcuno deve lavorare di notte, è necessario. Ecco, ci sono delle persone che non devono proprio accettare un lavoro con turni notturni? Assolutamente sì, delle persone che non devono lavorare, sono essenzialmente le persone che hanno delle patologie croniche, quindi che sono gravi e documentati disturbi cronici del sonno, gravi malattie gastrointestinali, gravi e documentate malattie cardiovascolari, insomma diciamo tutte le malattie croniche. Sì, ecco, non devono questi lavoratori, specialmente se non ben compensate dalla terapia, voglio dire, c'è modo, dottor Gargiulo, in qualche modo di sollevarsi da questa fatica dei turni per un lavoratore che i turni deve farli, quindi in ottima salute, tocca a lui. La notte di sonno persa è difficile recuperarla dormendo al mattino. Magari sì, si può cercare di anticipare l'ora a cui si va a letto la sera dopo. Anche se uno è un gufo oppure un cioè indipendentemente poi è dai... chiaro che la individualità in questo, certo, la dice molto lunga, e i turni di notte dovrebbero essere fatti dagli insonni, però non è così facile. Ed eccoci di nuovo insieme, pronti per affrontare un nuovo argomento. Parliamo di tumore al seno, è un problema serio, in aumento ogni anno, circa 40.000 donne si trovano a fare i conti con questa malattia. Grazie però ai programmi di screening mammografico e alla diagnosi precoce che permettono di identificarla nella fase iniziale, sono sempre più numerose le donne che guariscono, quindi ci si ammala di più ma si muore di meno. È un passo avanti e io credo sia importante sottolinearlo per sostenere da un lato la cultura della prevenzione, ma anche per coltivare la fiducia nelle cure che oggi riescono proprio a controllare la malattia in modo sempre più efficace. Sono cure sempre più personalizzate. Ne parliamo oggi con il professor Aaron Goldrich, direttore del Dipartimento di Medicina dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Sì, buongiorno. La diagnosi di una malattia maligna al seno, come una malattia maligna altrove, è sempre una diagnosi sufficientemente devastante per la donna, anche quando viene individuata in fase molto precoce, quando il tumore è molto piccolo e quando si riesce a trattarlo nella maniera più soddisfacente possibile, meno devastante possibile, cioè applicando un trattamento specificatamente al tessuto neoplastico, al tessuto maligno, lasciando il tessuto normale in sede, mantenendo una buona qualità di vita anche per questo tipo di trattamento. Per cui la diagnosi precoce è una meta della prevenzione secondaria che si ottiene con screening, ed è peccato sentirsi in colpa quando si vede a un certo momento un nodulo mammario diagnosticato come maligno che necessita un trattamento. Professore, oggi però si può incontrare questo tumore e liberarsene definitivamente. Tante donne guariscono completamente, le ferite rimangono nel cuore, perché questa è un'esperienza che segna profondamente la vita di una donna, anche quella della sua famiglia, ma io credo che anche il fatto che gli interventi siano più conservativi, in un certo senso anche questo aspetto può aiutare la donna a, non dico dimenticare, ma superare, a guardare con altri occhi questa esperienza. Sicuramente, non dimentichiamo però che la donna alla quale è stato fatto un intervento limitato non ha avuto l'esperienza più devastante di essere trattata in maniera più cruenta, per cui per lei questo è il massimo che è stato fatto ed è questo che segnerà la sua storia per il futuro, per cui c'è bisogno sempre di un po' di supporto, di un po' di riduzione del senso di colpa che molte donne hanno, perché si sentono eventualmente arrivati alla diagnosi non in maniera ottimale. Questa è una cosa che va, a mio modo di vedere, completamente sfratata. Perché, professore, questo vuol dire che ci sono dei tumori, mi passi il termine, che nascono all'improvviso, cioè un nodulo che ieri non c'era può comparire il giorno dopo? Esattamente, ci sono questi tipi di tumori che appaiono rapidamente e il patologo che ci dà l'identikit del tumore ci dice: questo è un tumore che è cresciuto rapidamente, perché io con una particolare colorazione sono riuscito a individuare che la proliferazione delle sue cellule era molto rapida, molto intensa, per cui posso predire che questo è un tumore che ha avuto una evoluzione rapida. Quindi, professore, vuol dire che i tumori che evolvono rapidamente sono i tumori sempre più aggressivi e sempre più cattivi, più difficili da guarire, oppure questa equazione è sbagliata? Questa equazione è sbagliata perché tumori che sono molto proliferanti e tumori contro i quali noi abbiamo delle terapie intelligenti sono i tumori meglio trattabili, e molte volte noi ci troviamo di fronte a un tumore che è comparso rapidamente ma che può essere trattato con una eccellente prognosi. Professore, però ci sono donne a cui la malattia viene diagnosticata in fase avanzata o ancora casi in cui la malattia ritorna. Quali sono adesso, al momento, le disponibilità per questi tipi di tumore? Come garantire a queste donne, per le quali non si può usare forse la parola guarigione, una qualità di vita accettabile, soddisfacente? La malattia, quando viene diagnosticata, viene trattata con una terapia cosiddetta precauzionale. Con quella si riduce in maniera molto significativa e rilevante la probabilità di recidiva, ma quando la recidiva accade, come lei ha detto giustamente, la malattia è cronica, assomiglia al diabete, all'artrite reumatoide, e va trattata con dei principi molto precisi. Uno dei principi è quello del minimo indispensabile, visto che la donna rischia di vivere molto a lungo e dobbiamo tenere in saccoccia abbastanza mezzi per affrontare un eventuale ammutinamento nel futuro della malattia. Ragione per la quale, a mio modo di vedere, la maniera di affrontare una malattia avanzata cronica è quella di usare i mezzi più intelligenti e più mirati per quella situazione specifica, che va valutata e va anche discussa con la paziente per una miglior pazienza nell'affrontare il trattamento e le modalità anche di controllo della malattia, perché anche là bisogna usare molta parsimonia per non diventare schiavi eventualmente di controlli ripetuti, perché anche questo fa parte del controllo della malattia cronica. Il controllo di come va. Professore, si sente sempre più spesso parlare, noi lo leggiamo nei giornali, lo sentiamo nelle interviste, di farmaci intelligenti, e si parla anche di farmaci intelligenti naturalmente nella terapia, nella cura per i tumori. Ci spiega esattamente come funzionano, come fanno queste molecole a bersagliare le cellule malate risparmiando quelle sane, e quale sarà il futuro? I farmaci intelligenti sono appunto intelligenti, se non sono intelligenti perché loro hanno il cervello, ma sono stati creati in una maniera da bersagliare un specifico punto nella cellula tumorale o nel contorno della metastasi, nel cosiddetto stroma o nei vasi, per poter influire in maniera negativa la crescita del tumore, tralasciando tutto il resto del corpo nella maniera più semplice possibile intatto. Vuol dire che otteniamo un effetto sul tumore senza effetti collaterali o con i minimi effetti collaterali possibili. In quel senso lì la terapia è intelligente. Adesso, visto che ogni giorno si trovano altri bersagli nelle cellule tumorali, anche la quantità e la qualità delle terapie intelligenti aumenta strada facendo, per cui dicendo terapie intelligenti si intende solamente terapie più mirate verso un bersaglio tumorale preciso, identificato, il quale conviene bersagliare. Quindi rispetto alla chemioterapia, di che fa ancora paura a tante donne quando viene proposto, quando uno pensa al tumore, pensa all'operazione e poi a questo periodo di cura che ha degli effetti, almeno per noi che così ce la sentiamo raccontare, lo vediamo, pesanti, si perdono i capelli, la nausea, la debolezza. Sarà superata la chemioterapia in un prossimo futuro oppure sarà un trattamento destinato ad alcuni casi rispetto ad altri? La chemioterapia è un mezzo molto potente è molto potente ancora oggi per quei tumori che non hanno bersaglio conosciuto, per esempio, dove la tossicità della chemoterapia rende questi tumori guaribili. Per cui la chemoterapia è un tipo di trattamento meno intelligente, più a largo spettro di tossicità, che non risparmia cellule normali dell'organismo e per cui fa effetti collaterali conosciuti e riconoscibili. Comunque, l'uso della chemoterapia oggi è diventato molto, molto più adeguato a una buona qualità di vita. Noi usiamo per esempio dei chemioterapici a dosaggio basso frequente, si chiama metronomico perché come il metronomo mantiene un ritmo incalzante a dosaggio basso. Questo di solito fa molto meno effetti collaterali, per cui abbiamo imparato come usare la chemioterapia in maniera più intelligente quando la chemioterapia stessa è magari meno intelligente delle terapie mirate. Per cui, a mio modo di vedere, verranno integrati nuovi trattamenti assieme con una chemioterapia usata in maniera più intelligente. Professor Goldrich, io la ringrazio davvero per averci aggiornato un po' sull'approccio nei confronti di questo tumore. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie mille. Grazie, anche professore. A lei, a tutti gli ascoltatori. È tempo di andare a sentire le informazioni sul traffico, ma prima vi rinnovo un invito, un consiglio, vi faccio una segnalazione. È aperta sino al 10 gennaio la mostra Femmina, il seno nell'arte e nella medicina, promossa da ONDA, l'Osservatorio sulla salute per la donna. È disponibile e visitabile all'OIEO, all'Istituto Europeo di Oncologia di Via Ripamonti di Milano. Per ulteriori informazioni vi rimando sul sito di ONDA, www.ondaosservatorio.it. E adesso cambiamo decisamente argomento, si sta avvicinando, dico avvicinando, l'ora della pausa pranzo. Alcuni di voi come me sentiranno già un languorino. Penso a chi di solito inizia la giornata molto presto, ma io credo che ci sia anche un altro aspetto che può giustificare l'aumento di appetito tipico di questi mesi, il freddo. Di solito in inverno si mangia di più, si arriva alla fine dell'inverno un pochino più morbidi, con qualche chiletto in più. Ma non facciamoci la testa. Procediamo per ordine. Intanto saluto il nostro medico amico, il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in medicina preventiva, che è qui in linea per prendersi cura di noi. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Dottor Temporin, dica la verità, anche lei d'inverno mangia un po' di più? Diciamo che anch'io ogni tanto d'inverno mi lascio andare e purtroppo tendo a mangiare un po' di più. Sicuramente la riduzione delle ore di luce, il fatto che comunque il clima freddo e poi la possibilità di trovare cibi molto molto molto gustosi ma purtroppo ricchi di grassi ci fanno aumentare un po' di peso. Senta dottore, però se noi mangiamo un po' di più e riusciamo a trovare anche il modo per muoverci un pochino, cioè non andiamo proprio in letargo. C'è da dire che poi d'inverno molti di noi tendono ad impigrirsi visto appunto l'avvento del buio molto presto, magari si abbandonano sport all'aria aperta, che lo stesso clima poco mite ci permette di fare, molto spesso si riducono le frequenze in palestra o in piscina proprio per questa tendenza a rimanere più in luoghi caldi e a coccolarsi con dei cibi gustosi, ma se noi vogliamo, se rimaniamo attenti a quelle che sono le combinazioni alimentari, anche in questa stagione noi possiamo trovare cibi energeticamente utili, ma che allo stesso tempo ci permettono di mantenere la linea. Senta, dottor Temporin, allora passiamo dalla teoria alla pratica, perché sembra un po' difficile coniugare le due cose, il gusto, il sapore e anche tutto questo nel rispetto del corretto introito calorico. Facciamo una giornata tipo, vogliamo farla insieme? Partendo dalla colazione, immaginiamo, insomma, non un freddo terribile, ma insomma teniamo conto anche della variabile freddo e della variabile luce. Certamente Nicoletta, allora c'è da considerare che in questo per qualsiasi stagione, ma molto di più anche nel periodo invernale, la colazione è un pasto fondamentale della giornata. È importantissima in quanto il livello energetico che noi dobbiamo assumere durante la colazione ci permette di gestire in modo regolare tutte le energie della giornata. Sono stati fatti degli studi in cui si è visto, soprattutto su studenti, i quali magari si impigriscono a letto ancora di più adesso d'inverno, che una colazione troppo scarsa diminuisce la soglia d'attenzione e quindi diminuisce anche la loro capacità intellettiva. Per cui anche tanto più per chi lavora è molto importante una colazione sicuramente a livello calorico importante, anche perché poi il nostro organismo nella giornata ci permette di smaltire queste calorie che noi andiamo ad assimilare. Il mattino allora in bocca. Dottor Temporin, una colazione, lei ad esempio, prendiamo lei, cosa mangia a colazione? Perché ride? Perché non la fa? Predica bene, razzola male, o perché si nutre come un pascià? No, assolutamente, per me la colazione è un momento importante. Purtroppo per problemi tante volte di fretta tendo ad essere un po' frettolosa, ma la colazione non manca mai da me. Allora, che cosa mangia? Sediamoci con lei a tavola. Allora, la prima cosa importante è l'apporto di liquidi e soprattutto di vitamine. Quindi non deve mai mancare alla mattina l'apporto di frutta, quindi nel mio caso una buona spremuta d'agrumi, ottima l'arancia, eccezionale il pompelmo per la ricchezza di potassio e per i suoi sali minerali, molto digeribile e sicuramente molto utile come primo pasto nell'arco della giornata. Dopodiché lascio passare almeno 10-15 minuti, in quanto la presenza ovviamente di acidità di questi agrumi può interferire con poi il consumo delle bevande successive. Dopodiché passiamo ovviamente alla bevanda principe, che può essere il latte oppure lo yogurt, in cui ovviamente noi... Io ad esempio avrei messo il caffè. Sbaglio? Allora. È lì che cade l'asino, però con me molti altri asini, perché il caffè sveglia al mattino. Senza caffè come si fa? Beh, allora noi il caffè lo possiamo bere tranquillamente con il latte, anche se è una combinazione alimentare un po' discutibile, soprattutto per soggetti che possono avere colon irritabile o gastrite. Comunque il caffè è una bevanda che può... Ce la lascia. Sì, la lasciamo. Sicuramente dal punto di vista nutrizionale non abbiamo apportato comunque sostanze nutrienti come latte o yogurt, Nicoletta. No, ma io non dobbiamo mica escluderli. Volevo chiedere se mi lascia un caffè, perché il caffè così... Io lo lascio sicuramente. Bene, allora io, latte o yogurt, ok, proseguiamo. Bene, poi una volta utilizzata una bevanda base, noi possiamo scegliere in base alle nostre esigenze. Io per esempio preferisco fette biscottate e marmellata, ma possono essere utilizzati tantissimi cereali, come parlavamo in qualche puntata precedente dell'avena, fiocchi d'avena, fiocchi di riso, fiocchi di frumento, insieme a uvetta, mandorle o semi oleosi, compongono queste... Ci danno un po' di sprint. Certo, perché il muesli è energetico, per lo sportivo specialmente, il muesli è un super energetico, ma di facilissima assimilabilità. Certo, quindi la nostra colazione finisce qui e per chi ama ad esempio il salato? Allora, intanto non finisce qua, perché se qualcuno ha bisogno invece della marmellata di un concentrato di energia, può essere utile per esempio la crema di mandorle, che molti non usano o non conoscono, ma che spalmata sul pane è molto buona. È molto buona. Lei è anche un buon gustaio, dottor Temporin, perché ci tira sempre fuori questa crema di mandorle. Bene. Sì. Oppure l'alternativa è la crema di nocciole, che io preferisco rispetto alla cioccolata, in quanto è molto più energetica, ma come grassi, ovviamente sono grassi molto più utili al nostro organismo rispetto a quelli che vanno poi a crearci la zavorra, diciamo. Sì, naturalmente un cucchiaino, perché mi sembrano delle bombette queste caloriche. Soprattutto per chi poi si appresta a una vita sedentaria, uno o due cucchiaini. Per lo sportivo può andare bene anche uno o due cucchiai. Quindi per chi va a sciare, sì, è vero. Sento che lei è uno sciatore, dottor Temporin? Guardi, io sono uno sciatore, sì, uso anche la tavola da snowboard. Ecco, quindi allora al dottor Temporin e a chi va sulle piste come lui, allora concediamo anche due cucchiaini di crema di nocciolo di mandorle. E mi sembra che questa colazione diventi quasi un pranzo di nozze. Abbiamo quasi finito, perché sennò gli impianti chiudono. Solo dare due dettagli. Sì. Oltre al succo d'agrumi, a chi non lo digerisce o non lo gradisce, può essere molto utile, soprattutto per chi va in un clima freddo, per esempio l'utilizzare il succo di mirtillo, il quale contiene antocianosidi, che sono delle sostanze che vanno a proteggere i nostri capillari e la nostra circolazione. Per cui specialmente voi signore che soffrite di cuperoso, problemi in cui il freddo può peggiorare la situazione cutanea, andiamo di mirtillo. Il mirtillo è un ottimo frutto, tra l'altro è dolce, si prende volentieri in succo e può essere una valida alternativa come frutto a colazione. Senta, dottor Temporin, pranzo, cena, rapidamente, ma vorrei che lei desse anche dei consigli, in parte li ha dati a chi? O per necessità, nel senso che ci sono persone che lavorano al freddo, mi vengono in mente i vigili, i poliziotti, le persone, no? Ci sono tanti lavori che ci costringono a stare al freddo, quindi immagino che la dieta debba cambiare un pochino, e anche per chi invece al freddo ci sta per praticare uno sport, lo sport preferito, lo sci, come ricordava lei, piuttosto che chi corre, chi va in bicicletta e deve allenarsi. Dottor Temporin, allora, noi siamo più o meno all'ora di pranzo, con questa colazione così abbondante non ci viene fame a metà mattina. Speriamo di no, altrimenti in tasca qualche nocciola o delle noci, sono energetiche, poco ingombranti e sono ricche di grassi poliinsaturi e vanno benissimo a saziarci e farci arrivare a pranzo senza avere un calo energetico. Quindi, dottor Temporin, noci, nocciole in tasca, uno snack rapido che ci dà energia. Arriviamo all'ora di pranzo? L'ora di pranzo è fondamentale, in quanto ovviamente è l'ora in cui il nostro organismo richiede nuovamente energia, però dobbiamo considerare, soprattutto per chi fa sport o anche chi fa lavori, che dobbiamo poi evitare quello che è poi la stanchezza pomeridiana o la difficoltà digestiva determinata da cibi troppo ingombranti a livello digestivo, per cui ci vuole un piatto energetico ma facilmente digeribile. E io in questo caso consiglio una buona zuppa, una zuppa di legumi associata a cereali, che diventa un piatto unico, completo, ricco di sostanze e nutrienti, ricco di proteine. La combinazione cereali insieme ai legumi ci dà una completezza proteica. Quindi ad esempio un bel piatto di riso e lenticchie. Noi in Veneto facciamo la pasta e fagioli. Pasta però... e fagioli, e ognuno, poi le tradizioni locali sono ricche di ricette, una più buona dell'altra, per cui possiamo, ne abbiamo una zuppa per ogni giorno dell'inverno quasi. Esatto, esatto. Senta, dottor Temporin, consigli per gli sportivi? Non mangiate panini, ma preferite una zuppa, se la trovate ovviamente nelle baite. O la polenta, si può? Assolutamente. Una bella polenta, fantastico. E poi bevete un bel tè caldo che vi ristora, la teina è un blando energetico, ma evitate assolutamente di consumare alcolici, grappe e altro, in quanto danno una vasodilatazione immediata, ma che poi segue una vasocostrizione e soprattutto una perdita di quelli che possono essere i riflessi, la resistenza, per poi non farsi male sulle piste da sci. Dottor Temporin, grazie per essere stato con noi, buon giorno di festa anche a lei, spero che lei possa andare a sciare. La ringrazio, Nicoletta, non mancherà. Buone piste allora, e un saluto a voi che ci avete ascoltato. Il nostro appuntamento torna domani dopo il GR delle 11. Parleremo di sorriso. Iniziate a pensarci.